Italia in controluce. Benvenuti tra i reportage, le inchieste sulla cronaca italiana di Italia in controluce. Buongiorno da Daniele Biacchissi. La prima traccia ci porta a Locri, dove il sindaco Francesco Macri ha assunto Rocco Rispoli, testimone di giustizia contro la 'Ndrangheta. Un modello che però ha richiesto procedure particolari per un'amministrazione comunale. Daniele Abinello ha intervistato Francesco Macri. Tutte le cose che succedono in questo comprensorio, dalla lunghezza di 100 chilometri, vengono indicati come Locri. E su questo noi abbiamo cercato di dire che bisogna vivere in un paese con delle regole, intanto, partendo anche dalle piccole cose, cose che probabilmente anche la malavita dà fastidio quando uno cerca di mettere delle regole. Però le regole, secondo me, sono la cosa più importante oggi, se uno riesce a imporle, perché purtroppo bisogna imporle. Poi i segnali sono quelli che abbiamo dato con l'assistenza a chi ha testimoniato, ha fatto arrestare 52 usurai che operavano qui a Locri, e affiancare il vescovo, le forze dell'ordine in un lavoro eccezionale che stanno facendo in questo territorio, che però non basta da solo. Cioè, se noi anche riuscissimo a sconfiggere i fenomeni di criminalità organizzata e non riuscissimo a dare una prospettiva a questo territorio, tutto ciò servirebbe veramente a poco. Lei ha assunto come impiegato comunale Rocco Rispoli, il testimone chiave del processo che comincia il 1 settembre contro decine di usurai. È un segnale forte per la 'Ndrangheta. Sì, fa piacere che per esempio mi abbia chiamato l'altro giorno il comune di Mazara del Vallo in Sicilia per chiederci che procedura avevamo usato, perché avevano un problema simile, uguale a quello nostro, e volevano usare la stessa procedura. L'assunzione è stata un segnale forte che abbiamo voluto lanciare per cercare anche lì di far parlare in modo diverso di Locri e della Locride, e uscire da questo isolamento in cui questa zona è da troppo tempo, per motivi economici, per motivi sociali, per la mancanza poi di una classe dirigenziale sia politica che imprenditoriale che abbia saputo dare dei segnali positivi a questo territorio. Secondo me su questo però c'è veramente ancora moltissimo da lavorare. Ma cosa significa assumere per un comune, quindi un organismo pubblico, assumere un testimone di giustizia? Bisogna mettere a disposizione di questa persona tutta una serie di reti di sicurezza o no? No, perché lui non ha rifiutato per esempio la protezione da parte delle forze dell'ordine. Io su questo, lui dice che non è coraggioso, secondo me forse anche un po' incosciente, perché uno che fa arrestare 50 persone, che si presenterà il 1 settembre all'udienza preliminare del processo e testimonierà contro queste persone, che fra l'altro molte delle quali vede perché sono uscite per decorrenza dei termini, ci vuole del coraggio. L'assunzione invece per noi è un doppio significato, quello intanto di aver fatto restare Rocco qui, e soprattutto è importante che insieme a lui si possano fare delle cose importanti. Per esempio, da quando lui sarà qui in comune, cominceremo a parlare della costituzione di un'associazione anti-racket e anti-usura, che stranamente nella Locri non esiste. Lei nella sua attività di sindaco si sente abbastanza sostenuto dallo Stato? Quando lei fa delle richieste per risolvere determinati problemi, è abbastanza sostenuto per portare avanti il suo programma? Guardi, io devo dire la verità che ho avuto un sostegno molto forte dalla prefettura, al mio insediamento, con due prefetti che considero ancora oggi due persone che potevano cambiare il volto di questa zona e che purtroppo sono andati via, che sono l'ex prefetto Tesena, che era un poliziotto importante, oggi è il vicepresidente della commissione antimafia, il senatore, e chi l'ha sostituito. Oggi la prefettura, mi sembra che, lo dico senza polemica assolutamente, mi sembra che si occupi meno di questo tipo di problemi, e forse questo è un guaio. Per il resto devo dire che io ho sempre detto che poi l'azione amministrativa poteva avere successo se aiutata dallo Stato soprattutto, ma Stato intendo prefettura, forze dell'ordine e anche dalla Chiesa. Su questo il supporto, devo dire la verità, non manca, ma il supporto principale poi deve venire dai cittadini, dalla città, perché se il vescovo dice che sei bravo e ti aiuta, il colonnello dei carabinieri anche, ma la città non reagisce, tutto questo poi alla fine serve veramente a poco. E la città non reagisce? La città reagisce, ma potrebbe reagire ancora di più, reagisce, è un percorso lungo. Io credo che per far ragionare in modo diverso chi per troppi anni è stato sia adagiato perché Locri poi è una città strana, è una città dove il terziario la fa da padrona, ci sono circa 5.000 dipendenti pubblici. C'è gente che secondo me col fatto che al 27 prende lo stipendio a casa si preoccupa di poco altro, anche della sua città, e non guarda i problemi a fondo. Secondo me su questo c'è ancora un lavoro lungo da fare, soprattutto di educazione alla civica, se vuole, in ogni caso educazione alla legalità e alla trasparenza. Italia in controluce. La seconda storia è una storia straordinaria e parla di una città a misura di bambini. Maria Luisa Pezzali. Questa storia inizia con quello che una volta non c'era. Non c'era una volta una città dove le case venivano costruite come piacevano ai bambini. Erano case tristi e grigie, adatte a persone grandi e molto serie, e dove dormire, guardare la televisione e dimenticare il mondo di fuori. E basta. Ora chiudete gli occhi. Imboccate il serpente strada fino alla corte della Grande Quercia, oltrepassando il Parco dei Mostri che Ridono, la Casa Castello, la Casa Trasparente e la Casa delle Pietre Preziose. Il vostro sentiero è illuminato dagli uccelli lampione che trovano riparo nei nidi comignolo. Riaprite gli occhi, non siete nel Paese delle Meraviglie, siete a Coriandoline, quartiere alle porte di Correggio, provincia di Reggio Emilia. 10 case monofamiliari e 10 appartamenti. Amici dei bambini, perché progettati sui loro desideri. Inaugurato 2 anni fa, Coriandoline è un riuscitissimo esperimento di progettazione partecipata, coordinato da maestre e pedagogiste che dal 1995 al 1999 hanno raccolto le indicazioni di 700 bambini delle scuole materne di Correggio e di Rio Saliceto. Ne è nato il manifesto delle esigenze abitative dei bambini, con le loro richieste sulla casa dei sogni. Trasparente, dura fuori ma morbida dentro, tranquilla, giocosa, decorata, intima, grande e magica. Se c'è una finestra alta io non ci arrivo a vedere, ma se ho la casa trasparente posso vedere dappertutto. Così quando prima di dormire guardo fuori le stelle. Perché così posso guardare fuori, vedo gli uccellini, le foglie degli alberi. Io la voglio dura, dura, dura, dura come il tavolo, perché mi piace così dura, così non si spacca. Che così quando arrivano i ladri hai un posto protettivo, no? Dentro a me mi piace morbida, ma fuori molto dura. La cooperativa di abitanti Andria ha accettato la sfida, costruire queste case. Il risultato è un quartiere modello, pluripremiato, meta di studenti, esperti e famiglie che arrivano da tutto il mondo. A Coriandoline le case sono una diversa dall'altra, ognuna ha un nome, non solo un numero civico, sono colorate, intime, con gli scivoli ad ogni rampa di scale. Abbiamo riportato il gioco al centro dell'attenzione, ci dice Luciano Pantaleoni, l'architetto a capo del progetto, papà di uno dei bambini coinvolti nella ricerca. Subito pensavamo di fare una casa, ma poi una casa sarebbe stata una finzione, nel senso che non riuscivamo a concentrare in un'unica casa tutto quello che i bambini ci hanno chiesto, e quindi abbiamo deciso di fare questo quartiere. È stata una sfida molto difficile, abbiamo lavorato insieme ad Emanuele Luzzati e ne è venuto fuori questo progetto di Coriandoline, che ha cercato di dare forma all'idea dei bambini. È stato molto divertente, abbiamo camminato su un filo sottilissimo, da una parte la banalità, dall'altra l'esagerazione, quindi abbiamo cercato di tenere questo equilibrio in cui in effetti abbiamo dato forma a delle idee che i bambini fanno, delle idee soprattutto prestazionali, insomma non chiedono di mettere i quadri, una tipologia dei materiali. Per esempio il gioco è un tema importantissimo per i bambini, e in Italia il cartello più diffuso è vietato il gioco del pallone, sembra che la cosa più pericolosa che in un'abitazione un bambino giochi, e quindi riportare il gioco al centro dell'attenzione del progetto è stato una cosa anche faticosa. Per esempio di fianco alla scala per 4 piani c'è uno scivolo per cui i bambini possono scendere con lo scivolo, l'ascensore è ritornato a diventare un luogo di gioco un po' magico, che ogni piano si trasforma, che deforma le immagini. Quindi il gioco ha contaminato un po' tutto il progetto. Io lavoro in un buchino che va sottoterra. La segreta, che dentro ci abbiamo messo dei gioielli anche. Ci piacerebbe una casa dove si può scrivere sul muro, dove si può giocare a palla, dove si può andare sul tetto. Abbiamo per esempio seppellito le automobili sotto due grandi colline che in pianura sono un evento. Sono giocose sotto perché sono diventate delle caverne dove si va a giocare a calcio o a tennis o a fare dello sport, coperte d'inverno e coperte anche d'estate dal sole, quindi molto magiche. E tra queste due colline c'è il prato dei mostri che ridono, dove ci sono due enormi bocche di mostri disegnate da Luzzati, che sono veramente molto molto affascinanti come luoghi. Ma camminare dentro il quartiere di per sé è un po' magico, nel senso che si entra in un mondo che è quello un po' immaginifico che i bambini ci hanno chiesto, insomma. Una casa magica che è così, quando metto i giochi in disordine, in un colpo si mettono a posto da soli. La domanda classica è: ma cosa succede quando i bambini crescono, insomma? E in realtà queste case non sono state progettate solo per i bambini, è un quartiere che è stato progettato per le famiglie, con una particolare attenzione alle esigenze dei bambini. Di solito le attenzioni si riservano alle persone di media età, qui i bambini hanno avuto un ruolo centrale nella definizione dei criteri di progettazione. Quindi il parametro bambino è stato usato come parametro di qualità, con l'idea che se i bambini vivono meglio, vive meglio tutta la famiglia. La seconda edizione di Italia Conto Luce termina qui. Radio24.it è il nostro sito, dove potete scaricare tutti i nostri servizi, i nostri reportage, le nostre inchieste, attraverso anche il podcast oppure semplicemente ascoltarle. Ricordo il nostro gruppo su Facebook, Radio 24 Italia in Controluce, dove potete lasciare anche le vostre tracce, i vostri temi, ciò che voi desiderate e noi parlassimo nel nostro programma, oppure la mail controluce@radio24.it. Torniamo domani puntuali 6:30, Radio 24.